Il punto di Stefano Folli. Dopo che il risultato è chiaro, come il ministro Cancellieri non è indagato dalla magistratura, dopo il sostegno e la fiducia che le hanno confermato il premier Letta e in particolare il Presidente della Repubblica, la decisione stasera del Partito Democratico a poche ore dalla seduta della Camera assume un significato politico decisivo. Se dovesse passare la linea della sfiducia individuale al ministro sarebbe una sfida senza mezzi termini al vertice istituzionale. Un atto davvero singolare da parte di una forza di governo, anzi della principale forza politica che sostiene il governo. Sarebbe, diciamolo pure, l'anticamera della crisi, la prova che il PD non è in grado, anche per i suoi problemi interni, di reggere questa maggioranza e questo quadro politico. Ma probabilmente non accadrà. Il PD, pur soffrendo, prenderà atto che non ci sono le condizioni per affondare il colpo. Occorrerà attendere un'occasione più consistente delle telefonate inopportune, ma penalmente non rilevanti, del ministro Guardasigilli.